e torniamo in onda dal Salone Internazionale del Libro. Io sono Fulvio Gatti, Fulvio The Cat su Twitter, e mi arrogo la possibilità di far diventare questa Sono sul Nuvolette, anche se è un'improvvisazione completa, perché ci deve essere una qualche sfasatura temporale per cui qualcuno ha invitato Andrea Malabaila e Carlotta Borrasi in radio, non sappiamo chi è, probabilmente è il me stesso del futuro che ha viaggiato indietro nel tempo, poi ha distrutto la macchina del tempo, quindi non si potrà più cambiare. Ciao Andrea, ciao Carlotta. Ciao. Ciao. Giusto per presentarvi, voi siete Las Vegas Edizioni, i Factotum, ideatori ufficio stampa, anzi c'è una divisione dei ruoli, immagino. Andrea fa più la direzione editoriale e Carlotta ufficio stampa? Sì, sì. Tendenzialmente sì. Sì, poi lei digitalizza il catalogo, in pagina, fa le cose più noiose. Ah, ok. Esatto, in quanto donna devo fare le pulizie di casa, capito? Ecco, ecco, ecco, qui già quasi si scoprono già gli alterini di una bellissima realtà torinese in cui condotta da una meravigliosa coppia di sposi e poi in realtà, come sempre, la donna, ma la donna in realtà comanda. Sì, fa infatti. Finta di finge di fare il lavoro un po' scomodo, ma in realtà poi sì, è quella che sbuffa, che deve portare pazienza, e poi in verità decido io. Esatto. Qui decido io. La vera mastermind dietro Las Vegas Edizioni. Oh, oh, oh, oh. E quindi, e poi tra l'altro era dovuto, probabilmente in realtà la chiamata vi è giunta da un altro me stesso del futuro che era in colpa, perché da questi microfoni venerdì Gianluca Morozzi ha detto che Andrea Malabaila non è un vero nerd, ma guarda Don Matteo. È vero questa cosa? No, smentisco proprio categoricamente, non ho mai guardato Don Matteo. È come sempre in politica, quando si smentisce categoricamente, in realtà sotto, qualche sotto, scheletro nell'armadio. Sotto, sotto, perché tutto nasce da una mia battuta in questo, che non so neanche io mai se dico sul serio oppure no, che c'è un bellissimo libro che questi due ragazzi, che non sono nerd purtroppo per loro, hanno fatto. E questo come si spiega il fatto che voi non siete nerd ma avete fatto una bellissima antologia sul Ritorno al Futuro? Ma in realtà probabilmente c'è del nerd in noi, e soprattutto con Ritorno al Futuro. Io sono sempre stato un grande appassionato della trilogia, e quindi lo scorso anno, mentre guardavamo per la 3.000.000esima volta la saga, abbiamo detto: perché non pensiamo a qualcosa, visto che il prossimo anno sarà il 2015, e nel 2015 non solo è il trentennale del primo libro, ma del primo film, ma è anche l'anno in cui Marty e Doc finiscono nel futuro, quindi adesso il futuro è qui. E allora abbiamo pensato di fare un'antologia. Ok. Di racconti. Qual è il primo autore a cui avete pensato di chiedere un racconto, Carlotta? Ma in verità abbiamo deciso di coinvolgere tutti i nostri autori. Noi abbiamo questa, diciamo, politica di cercare di non solo scoprire nuovi autori, ma ripubblicarli e cercare di tenerli, diciamo, in famiglia, ecco. E quindi abbiamo proposto l'idea a tutti i nostri autori. E poi c'è stata qualche guest star, tipo, che abbiamo rubato dagli editori che stanno in stand con noi, quindi Miragine e Intermezzi. E tra l'altro una guest star anche importante, perché c'è Paolo Zardi, che è stato candidato al premio Strega quest'anno, l'unico autore di una piccola casa editrice, ma piccola per davvero, ecco. Caspita. Sì, sì, infatti. E tutti questi, pur anche appartenendo a queste carature di letteratura, hanno rivelato il lato nerd. Ebbene sì, la cosa sconvolgente è questa, che nel momento in cui ho proposto l'idea dell'antologia, tutti entusiasti, super entusiasti, soprattutto gli autori nati, diciamo, negli anni 70, fine anni 70, inizio anni 80, e quelli proprio più appassionati. Abbiamo però coinvolto anche il nostro autore più anziano, che è del 39, anche lui però... Non si dice anziano, si dice adulto, diversamente adulto. Diversamente giovane, okay. E anche lui ha partecipato con grande entusiasmo, e abbiamo scoperto quindi che Ritorno al Futuro è assolutamente un film transgenerazionale. Ok, con dei paroloni così siamo a posto. Infatti, soprattutto dopo 4 giorni di fiera. Quindi in realtà nerd is the new mainstream, siamo d'accordo? Ma sì, alla fine... Ma poi la cosa bella è stata che anche l'accoglienza di questa antologia, noi temevamo un po' l'effetto antologia, perché è sempre difficile riuscire a proporre dei racconti al pubblico, e invece abbiamo visto qui al Salone del Libro che, proprio per il fatto che c'è un'idea dietro e l'idea che sfruttiamo biecamente, quella di Ritorno al Futuro, c'è grande attenzione, infatti lo stiamo vendendo molto bene. Ok. Diciamo la verità, in realtà Ritorno al Futuro è soft nerd, dovendo classificare, perché comunque piace a tutti, è facile. Poi c'è Star Wars, che è un po' più, era un po' più nerd approfondito, poi adesso è diventato mainstream. C'era Star Trek, che era terribilmente nerd, poi è arrivato uno che si chiama J.J. Abrams ed è arrivato anche al pubblico truzzo. Quindi, vabbè, ok, scusate, sono partito nei monologhi, d'altra parte... Ero 10 minuti fa, ero in autostrada. A me piacerebbe tantissimo fare un'antologia anche in Star Wars. In macchina, autostrada, adesso non è che uno va a fare... Vabbè. Sulla non DeLorean. Si lavora, no, perché non è che si campa del lavoro culturale, quindi uno arrotonda come può, però per fortuna non è il mio caso. Scusate. No, dicevo, a me piace... basita, l'ho persa, c'è rimasta di veramente male, Carlotta, mi spiace, lo so. No, vabbè, mi offendo perché dici che Star Wars è solo per i nerd. Io adoro Star Wars. Va bene, ah, ok, fantastico. Ma, quindi o sono nerd oppure non è così. Lui dà una connotazione secondo me molto positiva invece di nerd, perché infatti continua a dire voi non siete abbastanza nerd, esatto, per potervi permettere un progetto del genere. Invece state parlando con qualcuno che nel 2003 ha pubblicato un saggio su Star Wars e ha esordito nel mercato editoriale con quello. Sono stato anche l'esordiente più ricco della storia dell'editoria, visto che ho preso 350 euro di anticipo, credo che quindi ancora adesso ci campi peraltro. Sì, sì, sì, infatti vabbè. Dopo questo, comunque, voi siete tra l'altro un bellissimo marchio editoriale che pubblicate letteratura anti-snob. Questo è una definizione che mi piace molto e forse è quello che ci permette di avere qualche punto di contatto tra un post-nerd, quello che sono io, qualunque cosa significhi, e qualcuno che apprezza anche la cultura pop o comunque tutte le sfumature delle belle storie ben raccontate. Sì, pop penso che sia proprio una delle caratteristiche della nostra linea editoriale. Già ci presentiamo comunque molto colorati, poi il nome Las Vegas è quanto proprio di più lontano si potesse immaginare dal mondo dei libri, paludato e quant'altro. E poi alla Salone del Libro ci presentiamo sempre con Ruota della Fortuna, Slot Machine, quindi abbiamo veramente un atteggiamento molto easy. E anti-snob proprio perché secondo noi se si vuole avvicinare la gente ai libri non si può stare lì nella torre d'avorio, ma bisogna cercare di andare incontro alla gente, no? Ok, questa è la versione ufficiale. Carlotta, quella vera? No, io sono d'accordo, perché in genere quando si vuole convincere la gente a leggere si usa un po' la teoria del broccolo. Ok, la teoria del broccolo è questo: devi mangiare il broccolo che fa schifo, okay, perché ti fa bene. Fa schifo anche se ci metti sopra un chilo di formaggio, quindi fa schifo in generale. E invece bisognerebbe proporre i libri per quello che sono veramente. Sono anche intrattenimento, sono anche belle storie. È anche un momento per staccare dalla giornata. Bisogna smettere di dire che leggere serve a diventare persone migliori. Quello è un effetto collaterale e non è neanche detto. Cioè, si dovrebbe leggere per divertimento, per piacere personale, per scoprire nuove storie, per farsi coinvolgere in un altro mondo. E quello che vogliamo fare con Las Vegas è trasmettere esattamente questo, quindi più caramelle e meno broccoli. Fantastico. E quindi anche il luccichio di Las Vegas può essere veicolo, il luccichio della città, dei sogni anche un po' infranti, del ce la posso fare? Mi stanno guardando malissimo da fuori. E in questo caso il presentare in maniera accattivante anche i libri, il saper raccontare i libri, saper raccontare i libri allo stand, mi sembra che voi vi trovate anche molto bene qui allo stand. Tra l'altro siete allo stand? L17. Ok, per venirvi a trovare. E, per tutti quelli che stanno ascoltando in questo momento e vogliono scoprire un meraviglioso marchio editoriale, poi basta, perché in realtà sono cose che penso veramente di... Però non diciamolo. Quando uno eccede poi con gli aggettivi è brutto, anche perché forse c'è tutto un sistema di comunicazione che esagera con gli aggettivi. Sì, un libro potente. Io devo ancora capire che cosa... Cioè, sulle fascette il libro potente. Allora, un pugno è potente, un pestone su un piede è potente, un libro potente... Che vuol dire? Cioè, l'esordio più sconvolgente dell'anno. Poi lo leggi e capisci perché è sconvolgente. Beh, le milioni di copie tra cartaceo e ebook è una bella somma, eh. Anche quello è un capolavoro. Poi vorrei anche capire il libro tutto d'un fiato cosa significa effettivamente. Che tanto dura poco, quindi non conviene. Evidentemente c'è tutto un discorso di setto nasale in fiamme legato al mondo dello spettacolo che tutto d'un fiato arriva da quello. Vabbè, ok, sto sbracando. E voi siete... Avete un ottimo approccio alla cultura, ed è quello che bisognerebbe trasmettere, quindi viva Las Vegas edizione sempre, viva Carlotta Borasio e Andrea Malabaila. comanda Carlotta, quindi ovviamente sì, okay. No, vorremmo citare di sfuggita anche gli altri collaboratori, esatto. C'è Chiara Scavino che fa le copertine, okay. C'è Marica Andraiello che illustra la collana per giovani adulti, c'è, okay, Alessio Furfaro che peraltro ha vinto anche un premio con la copertina di Caro Scrittore in Erba, che illustra un'altra collana, le nostre mitiche correttrici di bozze che sono veramente dei killer degli errori, e quindi vorremmo ringraziare anche tutti quelli mia che ci hanno mamma che viene schiavizzata allo stand, esatto. Senti, poi dopo poi dice a me non citate mai, e invece lei è proprio quella che poi ha l'anima commerciale, e noi facciamo tante belle parole, ha venduto i libri, penso pure ai pinguini, e quindi che non qui sanno leggere, fa anche leggere, dei meravigliosi gadget di Las Vegas, no? Sì, noi puntiamo soprattutto sui gadget perché sappiamo che i libri interessano poco, cioè sono nel libro, poi in realtà c'è tutt'altro, perché i libri sono un aneddoto di una casa editrice che bazzicava da queste parti, che purtroppo non esiste più, che aveva fatto un orsacchiottino col marchio della casa editrice, e la gente passava e voleva comprare l'orsacchiottino, non i libri, perché ma noi vogliono comprare addirittura la slot machine che poi... No, la cosa più deprimente è stata questa: un anno fa, due anni fa, uno che passa, guarda i libri di sfuggita, poi alza lo sguardo, c'era il nostro bel striscione che usiamo per promuoverci, ma bello lo striscione, sì, grazie, ma quanto lo vendete? Porca miseria, cioè io vengo qua per vendere striscioni, ma ti pare? Invece devi fare un'offerta economica, via via, spara alto, perché vuoi mai che magari è un russo che è qualche collezionista di striscioni, se fai un prezzo alto... No, ma infatti le prime volte eravamo un po'... Adesso cominceremo a dire 1000 euro, esatto. 1500, spara alto, poi però le faccio un po' di sconto, facciamo 1499, cioè queste cose qua. Infatti, esatto, in saldo 1498, cose sì, così. Sì, queste cose qua. No, vedo. Ma l'abbiamo detto il titolo dell'antologia alla fine? Beh, naturalmente no. Ecco. Che? Prendi la DeLorean e scappa. E io lo sto sventolando in webcam se qualcuno sta guardando in diretta. Ed è un'antologia bellissima, 18 racconti, uno più bello dell'altro. Diciamo, citiamo gli autori, visto che stiamo parlando espressamente di un'antologia. Allora, a memoria. No. Ti faccio leggere a memoria. Allora, Davide Bacchilega, Marco Candida, Eva Clesis, Vito Ferro. Stai leggendo. Però. Roberto Gagnar e Michela Cantarella, riguardo di Enzo Gaiotto, Manuela Giacchetta. Stai leggendo di striscio, hai il libro aperto, però è come a scuola, fai finta, in realtà era solo... Esatto. Elia Gonella, Andrea Malabaila, che sarei io, che ho anche curato l'antologia. Cristian Mascheroni, Gianluca Mercadante, Claudio Morandini, Gianluca Morozzi, Daniele Pasquini, Giorgio Pirazzini, Giuseppe Sofo, Daniele Vecchiotti e Paolo Zarti. Fantastico. Dove si può trovare, oltre che al Salone del Libro? Tendenzialmente ovunque, in libreria, naturalmente in farmacia diventa più difficile, però... Anche se io comincerei a vendere in farmacia. Potrebbe essere sì, un prodotto da banco. Una bella cura contro l'analfabetismo, soprattutto libri felicemente anti-snob come i vostri, li consiglierei. Vicino alle Ziguli, che abbiamo anche quei colori lì. Vicino alle Ziguli, vero? Bello, bellissimo. Mm. Ma Carlotta, io la farei comunque quantomeno assessore regionale alla cultura subito, perché ci sta dimostrando un acume che noi vecchi, noi uomini sulla via del degrado cellulare, perché l'uomo chiaramente degrada cellularmente prima. Cioè, quindi io e te, Andrea, siamo già con un piede nella fossa. Invece una giovane ragazza brillante... Ma no, devo dire bene anche di Andrea, perché già gli abbiamo detto la cosa di Don Matteo, quindi me la... Sì, poi anche, ma anche su Facebook vedo che ti piace molto prendermi di mira. Ma io sono sostanzialmente un cretino, quindi non riesco, anzi la parola giusta è cialtrone. No, ma io sono il perfetto parafulmine, sono già il parafulmine di Carlotta, quindi giustamente... Ma i miei fulmini sono più che motivati, Cicci. Prendo di mira su Facebook, non me ne sono mai accorto. Io scrivo delle boiate e basta. Adesso in realtà sto prendendo di mira più Fabrizio Furchi, vado un po' a periodo. Anche perché se prendono di mira me ce ne sono un po' troppe, quindi bisogna sempre attaccare per primi. Credo che la sortita, per essere contenti, per non farmi litigare con nessuno, potremmo chiudere qui, a meno che non ho idea. I ragazzi, Alessandro, c'è già i prossimi, sono tutti qua davanti. Non sappiamo, andiamo avanti. Finché non ci fanno gestacci andiamo avanti. Allora, parlate altri libri in uscita o comunque di cui consigliate la lettura, che avete già di novità qui. Il penultimo libro che è uscito è Ho sposato mia suocera, che Fulvio tra l'altro ha recensito benissimo sulla sua nuova provincia, ed è sono le memorie di un genero esaurito, che racconta le sue peripezie con una suocera, diciamo, un po' invadente, ed è un libro molto divertente che è scritto da Stefano Grimaldi, che in realtà non si chiama Stefano Grimaldi, ma per paura di ritorsioni da parte della suocera ha usato questo pseudonimo e viaggia mascherato. Ma vogliamo fare un'anticipazione della prossima pubblicazione? È un po' presto. Un po' presto. Diciamo solo che si parlerà di morti ammazzati, per finte per davvero. Oh, fantastico, molto interessante. E sì, più o meno data d'uscita. È anche abbastanza nerd comunque, perché sì, poi si parlerà molto di serie televisive. Vabbè. Data di uscita dopo l'estate, quindi è un po' presto, la gente poi ha memoria corta e... Prossima volta vi invito alla puntata vera di Sono solo nuvolette e facciamo i quiz nerd. Quindi pianeta d'origine di Chewbacca. Carlotta, pianeta d'origine di Chewbacca di Star Wars. Non me lo ricordo. Ok, vabbè. Il pianeta dei Wookiee. Sì, ok, la specie, ci siamo già vicini. Si chiama Kashyyyk. Vabbè. C'è questa cosa problematica che è legato a questa cosa terrificante che George Lucas ha fatto sparire dall'universo, e purtroppo c'è grazie ai Mule, eccetera, che si chiama lo Star Wars Holiday Special, che è uno speciale televisivo natalizio. Sì, era terribile, ho visto delle immagini, era terribile. Esatto. Cioè, brutto, la festa di Natale brutto. A casa degli Wookiee, in cui c'è Chewbacca, la moglie, il bambino e lo suocero di Chewbacca, il vecchio ATC Cuff, sì. Perché c'è questa simpatica cosa che Star Wars nel 78, tipo così, valeva 78-79, aveva un valore commerciale pazzesco. E George Lucas ha accettato di fare questo speciale televisivo. Poi gli inserzionisti erano tanti, quindi l'ha dilatato, e quindi ci sono dei momenti di trash, di kitsch. No, non l'ho mai visto. C'è Carrie Fisher che canta, e Carrie Fisher canta abbastanza bene, quindi ci sta anche bene. Ma poi c'è comparsate di celebrità televisive dell'epoca, in parte improbabili. Secondo me c'era in qualche speciale di qualche cofanetto questa cosa qua, perché io me la ricordo e quindi... Ma io ho il cofanetto solo di Ritorno al Futuro. Ok. Tanto per tornare. Va bene, per tornare in tema. Questa divagazione su Star Wars, tanto per dire che c'è tantissimo in Star Wars. Prossima antologia Star Wars, se avete bisogno di un curatore pazzo abbastanza. Per i 40 anni possiamo farla. Ma non diciamolo troppo forte, perché poi... Ci rubano l'idea. No, infatti. Quindi non la facciamo, la facciamo. Oramai è bruciata, pazienza. Chiuderei, perché abbiamo improvvisato, quindi non voglio attirarmi le nemicizie di nessuno. Grazie tantissimo per essere stati qua anche nell'improvvisazione. Andrea Malavai, grazie a voi. Grazie a voi per l'ospitalità. Ok, per volete... Chi sente in diretta dal salone, o chi passerà al salone oggi o domani, consigliamo anche una visita allo stand, dicevi? No, c'è anche un a Settimo, proprio visto che tra l'altro la radio di Settimo ci sarà lo stand a Settimo? No, sì, lo stand è qua. No, ci sarà poi un evento proprio dedicato a Ritorno al Futuro dal 1 luglio, e ci sarà il museo con tutti i cimeli presi proprio dai tre film, e poi più avanti, poi il 7 novembre, perché poi l'evento dura alcuni mesi fino a novembre, e a 7 novembre ci sarà poi anche un altro evento che si chiama il ballo incanto sotto il mare, che riprende il famoso ballo incanto sotto il mare, dove il padre e la madre di Marty si mettono insieme, e quindi tutto con ambientazione anni 50, musica anni 50, gente vestita anni 50. Voi andrete vestiti anni 50? Noi andremo vestiti anni 50. Ci stiamo organizzando. C'è qualcuno che fa biff e si prende i cazzotti poi alla fine? Lui ha proprio la statura di biff. Io sono un piccolo Marty. Ah, ok, va bene. Allora, ancora un indirizzo. Siete anche su Facebook, visto che abbiamo parlato di Facebook, che ti prendo di mira. Siete anche su Facebook, Las Vegas Edizioni, credo? Sì, Las Vegas Edizioni. Poi il sito, mi piace su Las Vegas Edizioni. E poi lasvegasedizioni.com è il sito. Siamo su Twitter, siamo su Anobi, siamo sul Goodreads, siamo ovunque, ma soprattutto allo stand L17. Fantastico. Ok, grazie ancora, Andrea Malabaila, Corlotta Borasio, Las Vegas Edizioni. Grazie. Ciao a tutti. Grazie, ciao.